Noi abbiamo partecipato a questo avviso pubblico, abbiamo ottenuto lo spazio, siamo risultati vincitori facendo una proposta che raccoglieva diverse associazioni e gruppi informali. Dopodiché, una volta ottenuto lo spazio, abbiamo cominciato a negoziare un po' con il comune per capire un po' come gestirlo, le spese, da una parte quindi questioni tecniche, dall'altra parte invece per avanzare una negoziazione più politica che riguardava come venivano scritti i bandi, come funziona la gestione degli spazi, a chi doveva essere data la responsabilità legale, perché eravamo d'accordo con il comune che in qualche modo si viaggiasse insieme, si stesse dentro una negoziazione per capire appunto come far sì che questo spazio diventasse uno spazio di tutti, di tutte, in cui fosse in qualche modo anche il luogo dove innovare le politiche partecipative bolognesi in accordo con il comune. Quindi una trattativa durata un anno in cui con cadenze fisse andavamo nell'ufficio cultura del comune di Bologna per parlare appunto da una parte della gestione tecnica dello spazio e dall'altra parte per promuovere questo tavolo insieme all'amministrazione per scrivere il regolamento dei beni comuni e i vari bandi di assegnazione dello spazio e pensare un po' come risolvere questioni più politiche che erano in qualche modo anche nell'obiettivo del bando stesso, erano evidenziati anche nell'avviso pubblico per appunto fare in modo che le politiche partecipative fossero più innovative possibili. Questo è durato fino a dicembre 2019, dopodiché aspettavamo di essere convocati come sempre dal comune, invece si è interrotto ogni tipo di comunicazione. Quindi da gennaio 2020 non abbiamo avuto più comunicazione, abbiamo scritto, utilizzato tutti i canali formali, mail, telefoni, perché insomma ci conoscevamo anche personalmente, avevamo i numeri sia noi che dei referenti in qualche modo dell'amministrazione, sia loro per quanto riguarda i nostri referenti, visto che erano diverse associazioni, non abbiamo avuto mai risposta, se non una risposta tardiva, appunto nella primavera, a ridosso della primavera 2020, in cui ci si diceva venite a prendervi le chiavi sostanzialmente, presentatevi con l'assicurazione già fatta, con i bolli e tutte le cose, come se quell'anno in qualche modo di negoziazione non ci fosse stato. No? Quindi siamo trovati in una posizione di imbarazzo in cui abbiamo continuato a rispondere, ma scusate, aspettavamo di essere convocati per parlarne e niente, non c'è stata più nessuna risposta. Questo è avvenuto prima del Covid, quindi il Covid non vale evidentemente come giustificazione, dopodiché c'è stata la campagna elettorale, le amministrative e non c'è stato più nessun tentativo da parte loro di riconvocarci e noi non sapevamo più cosa fare. Abbiamo scritto un giornale, abbiamo denunciato la nostra situazione, abbiamo parlato con il quartiere, abbiamo parlato con tante realtà, ma non abbiamo mai avuto risposta, e ancora adesso aspettiamo che ci dicano perché questo rapporto si è interrotto nel momento in cui era un rapporto in cui il comune voleva investirci e che il comune stesso, quando presentava in convegni, seminari organizzati anche a Bologna da altre realtà territoriali e amministrative, in qualche modo le sue politiche partecipative, citava anche il nostro caso, cioè citava il caso di bancarotta come un caso innovativo a far vedere che si può fare insieme con i gruppi informali, con le realtà autogestite e con l'amministrazione, si possono fare progetti innovativi e progetti che trasformano gli spazi in spazi sociali e per tutti. Aspettiamo una risposta. Voi in conferenza stampa avete detto che il comune si sta comportando come un'agenzia immobiliare. Sì, ed era proprio quello che non volevamo e quello che il comune non voleva quando ha fatto l'avviso pubblico. Cioè, l'ufficio tecnico comunale ci hanno risposto che l'inagibilità del posto, perché il posto è inagibile, ci fu un sopralluogo, ma noi siamo stati nel sopralluogo 5 minuti a vedere lo spazio, quindi non è che abbiamo fatto, no, avevamo dettagli tecnici su ogni piccola stanza, luogo appunto di questo spazio qua, e ci è stato risposto che in qualche modo se il bene fosse stato agibile e a norma l'avrebbero messo in vendita, non l'avrebbero messo dentro in qualche modo tra uno spazio di quelli che veniva dato appunto per il laboratorio, per questi processi partecipativi di cui parlavo prima, da una parte. Dall'altra parte, anche per l'utenza e altro, nel momento in cui si è interrotto questo rapporto, quando ci hanno detto per l'ultima volta venite a prendervi le chiavi, le condizioni erano quelle di partenza e quindi effettivamente un'agenzia immobiliare che dice pagherai la TARI, l'acqua, la luce, riscaldamento, come se fossi un utente in qualche modo di uno spazio, come se in qualche modo il comune non c'entrasse più niente, cioè non fosse anch'esso un attore politico coinvolto in questo progetto, come invece noi volevamo e il comune voleva e il comune invitava a fare nel momento in cui ha preso l'avviso pubblico. Di fronte a questa situazione è impossibile negoziare, noi non vogliamo che l'amministrazione sia fuori, cioè vogliamo che invece insieme si riescano a fare delle cose, questo è evidente. Ecco, voi adesso appunto sabato scorso siete entrati in questo spazio, ma siete disponibili a riprendere una trattativa col comune? Siamo disponibili a riprenderla, questo l'abbiamo scritto anche in conferenza stampa, quindi va da sé, ma vogliamo capire intanto però perché si è interrotta, perché ci avete fatto giocare a questo gioco, noi abbiamo partecipato e poi in qualche modo ci avete abbandonati, per cui capire anche quanta affidabilità c'è da parte dell'altro e quanto è affidabile l'attore istituzionale, perché poi alcuni attori sono ancora lì, quindi rappresentano le istituzioni come le rappresentavano allora prima dell'amministrazione, quindi che è successo? Dopodiché se si riapre quel tavolo, noi siamo disposti a partecipare, però vogliamo una spiegazione, cioè vogliamo capire perché siamo stati strumentalizzati e siamo diventati oggetto in qualche modo di, come dire, di un bando a cui abbiamo partecipato e che poi ci ha visto utili semplicemente per fare marketing politico, non per altro. Se dobbiamo riaprire una negoziazione e il fine ancora una volta è quello di riaprire una campagna pubblicitaria su come bella partecipazione a Bologna, è evidente che non ci stiamo. Se il fine è quello che invece volevamo fin dall'inizio, cioè effettivamente fare delle cose insieme per innovare le politiche partecipative, siamo qua.